Io sono. Er meglio. Ciao fra. Sto sto finendo di fare un'operazione chirurgica. Al microfono. Tuia, me ne avete diventato matto. Sono uscito di radio. E ho messo spray di tutto di più. E dopo era da cambiare. L'ho anche aperto il PTT, va. Quando va a aprire il PTT riesco con le lamelline piccole. No, già l'ho cambiato, adesso va bene, dai. Bene, sta andando adesso. Questo è il 3009, 4 watt, dai. Però me la parico, il 3009 mi è sempre piaciuto come esce di radio, non prende sul laser, è bello per quello. K. Ancora non ti sei rimesso a posto, fra con la bocca. E mollala una volta per sempre. Se non è fuori nulla è meglio. Oia. Così almeno contagia anche Lucia, non è fumante l'uno nell'altro. Ah, in macchina sì, dove sì? No, in macchina se lo cassa. Quelli col Monica. Ho capito. Ma l'hai comprato nuovo? Come mai questa fetta di gabo, bra? Ma lì ci devi mettere casse buone. Che casse sono? Già sono buone. Alpine da quanto? Vabbè. Quello che c'è voi è macchina, c'è verba. Amplificatore Alpine. Casse, Twitter, Midas, woofer e subwoofer. Tutto della era. Però erano 400 watt. Già è pulita la musica, si sente bene. Te lo sta mettendo l'impianto. Paga. Vabbè, già me lo fai vedere quando ci vediamo. Che a me mi piacciono queste cose. E poi com'è? Si chiude? Lo stereo si chiude, rientra dentro oppure rimane fisso? E anche io. Anche io, quello che c'è in macchina, c'ho il Bluetooth, telefono, ricevo messaggi, tutto faccio. Sì, vabbè, comunque il grosso è fatto, là. Ma è già finito di piazza? Vabbè, io ho dovuto recuperare il PTT da un altro microfono che ci avevo fermo perché non funzionava la capsula. E te vabbè, l'uso per pizzi. Ma non giocava due PTT, andava perfettamente, proprio sembrava fatta apposta. Questo qui era quello dell'S9, dell'S980, praticamente premevi la portante, parlando ti mancava la voce, non la sentivano più. Ci ho messo qua spray, l'ho tutto pulito con quell'aria spray, poi l'ho tutto, mi ho messo lo spray per contatti, niente, ho provato qua anche col CRC a vedere se cambiava la situazione, perché una volta con lo spray di contatti non faceva, invece ho messo una goccia di CRC e mi ha funzionato bene. Sì, cosa stai usando? Non M300. Ah, il baracchino, no, pensavo il microfono stavi dicendo. No, ti sento bene, la radio è abbastanza chiara. A parte la voce tua, però la radio è chiara. Però questo qui è il microfono, è quello che ho comprato, che ti avevo detto di comprarti, da evento che lo rilavi, da quello che lo rilavi. No, non è questo che dà problemi, no. Non è questo qua, no, fra. Era quello delle, te l'ho detto, dell'980, dell'S980, capito? No. Questo qua va benissimo, fa troppo bene. Quello che dava problemi invece era quello che ho comprato, che c'aveva anche Marco. Ma da problemi, ma era solo polvere, dai. Era solo polvere, l'ho soffiato, ho dato un po' di spray per contatti, adesso va bene. Ma quello lì non era consumato, ma sicuramente ci sono, non so se tu hai mai aperto un PTT, ci sono quelle lamelline fine piccoline. Sì, già va bene, dai, poi si vicino, là. Si vede in ante. Prego, buonasera. Quella che ho preso io è una bomba, capito? Sono partito da casa, sino arrivare nella zona di Bancari, quella zona lì dentro le campagne, sempre 9,20, 9,40. Ma mi pare 32 euro per spese di spedizione. Ed è buona, è tedesca. Cazzo, è un'antenna che va molto bene. Se uno non ha il esigenze molto grosse, reggerci la 600 watt. 1,60 mi sa. Però poi la calamita è un bel forte, non si muove neanche di un millimetro. Io sono andato a 120, 130, al prossimo massimo. Prego, buonasera. Ciao, vai, vai, vai, buonasera. Gavino, non l'ascolti a Franco. Ciao, ciao, buonasera, ciao Franco. Lo ascolto un pochino a metà QRM già, un po' a metà QRM. Lui mi sente. Sì, lui ti sente, barra mobile, stavano piazzando lo stereo. Gavino, ho risolto, quella roba là, tutto fatto. Ma vai, cosa aveva? Cambiato il PTT. Lo vedi che da quella slitta in pratica era lei. Ho cambiato PTT anche la capsula, adesso vediamo, stasera lo proviamo, mi dai un parere tuo, se va bene così con la capsula, se lo rimetto l'altra. Yeah, va bene. Già adesso io mi sono entrato adesso, che era... io c'ero un casino totale. Faccio, se vuoi aggiustarmi un attimino, lo carico fuori del furgone che domani devo consegnare e penso una mezz'oretta, mi faccio la doccia dentro, ok? Sentiamo dopo. Ehi, va bene Gabri, dai, non c'è problema. Avanti, fra. Ciao Gabri, no, sì, ciao Franco, buonasera, adesso ti sento, cambio 27075, buonasera, operatore Joker al mic. Ciao Gianni, buonasera, ci sei? Ehi, Gavi. E allora stamattina mi ha dato un po' di mattana, ho provato un microfono che non funzionava, la capsula, l'ho tolto da lì e ci andava proprio perfettamente, però visto che c'ero, gli ho lasciato anche la capsula di quel microfono, perché era un microfono con i belli, te lo ricordi quello che c'avevo nell'apparato modificato quando c'avevo da Porto Torres, era quello lì, quindi l'ho lasciato e niente, adesso voglio provarlo, se va bene, se voglio cambio la capsula anche. Sì, mi ricordo già. Gli hai messo la PTT di quello? K, sì. E intanto non lo stavi usando, quello lì così? Infatti, no, ci aveva... era smontato, non c'aveva nemmeno le cose. Mi avevo preso anche lo spinotto che non avevo, volevo fare un attacco e me l'ho preso da lì. E intanto lì ho i microfoni. Adesso io prendo e mi metto a... mi faccio le connessioni per... col microfono originale del... col microfono originale Midland, me l'ho riverniciato l'altra volta, me l'ho fatto bello e me lo metto nel superstarmi. Quello originale io ce l'ho nel superstar, però è troppo pesante, deve essere... c'ha qualche cosa di pesante sicuramente, di quelli precompressi, però mi fa la voce vasina anche, quindi l'ho cambiato per quello. Così magari inizio settimana prossima salgo e mi prendo quarantena, capito? Va bene, già a casa Gavi, c'è problema, ancora tutto bigiando, non vedo manco slegatolo, è ancora tutto pregatolo, non ho mai toccato nulla, è nuova nuova. Cosa ti stavo dicendo Gavi? Non mi viene, non ti sento col portatile, ho provato a accenderlo, ma secondo me c'è qualcosa che non va, perché quelli sono di quelli che devi mettere Europa, capito, devi mettere la nazione eccetera eccetera, bisogna vedere se, come si dice, se quello lì, adesso bisogna vedere, aspetta, aspetta che ho visto una cosa, che c'ho l'alimentatore regolabile, che se ne forno scala, aspetta, aspetta, prima che faccio qualche gol. Sì, ciao Franco, buonasera. Ti sento, sì, non ti sento, ma io qua ti copio bene, fai un passaggio. Guarda che fiscia che ho messo. Fa un passaggio portante bianca, fra. No, no, no, no, no, ti sento bene, qua non, non hai, almeno io non avevo nessun innesco, fra. Così ti porti dietro un po' di... Non riesco a capire se è alternata o rumore di sottofondo, se c'è qualcosa di acceso. Può essere anche un rumore di sottofondo. Aspetta, mi aumenta ancora. Vedi, adesso ce l'ho a 10, ce l'ho. Vedi a vedere com'è. No, no, fra, così no, no, è proprio rumore di amplificazione del microfono. Abbassalo, portalo più o meno a metà. Sì. A 5 così ce l'ho adesso, vedi, vedi a vedere, niente, questo è il Cadelta, l'ho rifatto un po' qualche capretto che toccava, due capi insieme toccavano, tocca e non tocca, però il rumore ce l'ho sempre, perché se metto l'eco, vedi, se metto l'eco, magari sta fischiando adesso, così è. No, Franco, non sta fischiando, non sta fischiando, però c'è sempre questa specie di alternata che ti porti dietro. Dovresti abbassarlo ancora un po'. Ok. Allora, no, adesso qua ti sento bene io. Qua non ci sono problemi. È solo che rimane la voce molto, diciamo, molto, molto secca, mi segui. Sembra... non sembra neanche amplificato questo microfono. Abbiamo fatto, ma però il microfono è, diciamo, è diverso dall'altro, anche, però vedo che l'eco, ora, vedi, l'eco non sta funzionando, vero? Confermo, l'eco non sta funzionando. Sì, me ne accorgo perché l'ago non si muove, dovrebbe muovere l'ago, non sta funzionando l'eco, e probabilmente c'è qualcosa che non fa. È positivo. Come mi occupi tu con questa radio di via a te? Buona, buona. La tua, guarda, è buona, c'hai la voce grossa, è ovvio che ti fa quella... Questo è un ICOM, questo è un IC737. Gli ho abbinato le mesi 80, gli ho abbinato le mesi 80 e niente, è una KF. Capo, sì, no, già va bene, già, una bella modulazione, ma guarda, già che ti fa fare il microfono, mi ascolto sempre bene. Sì, va bene. Dovresti provare, hai mai provato a abbinarti dappertutto per curiosità, per... dai, visto che ti piace questa cosa qua, hai mai provato un mixer a mettere nel microfono? No, negativo, mai. Però io ho paura che qua c'è qualcosa che non va, mi sei attaccato qualche filo, perché l'eco non funziona, che cosa faccio la funzione? Controllalo, aprilo. Intanto io sono con il radio, ti posso fare tutte le comparazioni che vuoi e non ho problemi. Poi se vuoi andare, se vuoi salire di qualche canale, in modo che siamo tranquilli, non ci sono problemi. No. Parla con Gabriel un attimo. Ehi, Gabri, questo come va? Sempre bene? Adesso ho attaccato l'altro apparecchio, vediamo se indovini qual è. Ciao Gianni, come? Ciao Fra, buonasera, dai. Vediamo se indovini qual è questo apparecchio, capi? Questo qua dovrebbe essere quello bello che c'è con, diciamo, quello con 30 watt, non mi ricordo il nome. Il Cobra, sì. È positivo, me ne sono, lo riconosco dal vito, beh, questa qua la modulazione è molto più, molto più forte, è molto più forte. Ho già una cosa, ti dispiace attaccare il Saturn Echo? Che voglio sentire la comparazione tra questo e il Saturn Echo, ti disturba? Lo posso fare, aspetta. Eccoci qua, Gobi. Fai un passaggio. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non c'è storia, già. Già, non c'è storia, tu puoi attaccare la radio che vuoi, quello che vuoi. Secondo me è il numero uno. Cosa, il Galassi? No, positivo già. È il numero uno, Ma come segnale, come radio, come che cosa? No, il segnale è rimasto, il segnale è 6930, sei sempre 930, però la radio è stupenda. Questo qui è quel BB+4 che vi avevi detto la modifica da fare, quello lì che ho modificato. Gianni, non c'è storia. Non c'è storia, è bello già. Bello. Guarda, io ti ho sentito con tante radio, cioè con tutte le radio che hai, addirittura questa come modulazione superiore anche all'altro che hai, bello, quello lo stesso che c'è forte, con diciamo che è più potente degli altri, però non c'è studio. Il Galaxy, poco di va, io perché sono innamorato del Galaxy, per quello, perché è una radio completa, esce bene, e tutto. Fammi una registrazione che la voglio sentire, come se ti viene male, capito? No, assolutamente no, prendo un telefono e te la faccio subito. Via. Che così voglio vedere come esce di radio in lontananza, mi capito? Quello lì voglio vedere. Vai Gianni. Via, dai, capi, prove tecniche e trasmissione, vediamo un po' come si comporta questa radio. Voglio vedere solo in lontananza come va con questo tipo di microfono. Prima avevo il Sony Delta, adesso non ce l'ho più, l'ho venduto e c'ho le BB+4, dai. Tutti dicevano che era bello il Sony Delta e cose, però poi mi stava dando problemi. Anche quello, il cursore stava cominciando a difettare. È positivo. No, guarda, come radio, secondo me c'è una HF. Guarda, questa radio qua è veramente bella. Io capito. Poi voglio andare a vedere le istruzioni di quelle portatile, perché c'è istruzioni, c'è tutto. Perché non sento la radio, è bassa la radio quando lo provo. Ho provato a vedere se ti ascoltavo e non ti ascolto, tu dovresti arrivare qua. Non lo so già, magari si dovrebbe arrivare, però è diciamo anche lui, se c'ha il gommino lascia il tempo che trova anche. Spiega, vado ad ascoltare la registrazione. Oh Gianni, io capi, dovete rifarmi il passaggio perché non mi ha attivato il video, adesso sono pronto, vai. Non era quello il problema, era ascoltare la modulazione, mi capi, anche se non c'è il video non fa nulla. Era per ascoltare la modulazione come usciva. Vediamo un po', dai, ti trovo, sei già in registrazione. Dai, prove tecniche di trasmissione, prove microfoniche, vediamo un pochino come sta andando questo apparecchio qua. Con questo microfono, se non sono ancora sentito in lontananza, voglio sentire come esce. Perfetto, fatto. Grazie. Che figura. E niente, adesso io mi faccio le connessioni di questo microfono con il Superstar e vediamo, dopo lo provo. Sto dicendo una cosa, non l'ha dato. Ma me l'hai mandato su WhatsApp? No, sempre su Messenger te l'ho mandato, sta caricando. E quella foto che mi hai mandato, dove sei? Sull'aereo. Ma chi, io? Sì, aspetta, no. Non me l'hai mandato, me l'ha mandato qualche di un altro, mi sono sbagliato. No, non ti ho mandato, mi ti sto inviando il video della tua registrazione. No, perché si vedeva il molo dall'alto, capito? E tu magari non dai un aereo di quelli ultraleggeri. Non mi è arrivato, capito? Sì, sta caricando già. Aspetta che guardo la connessione wifi qua. Ma me l'ha mandato un'amica mia, Felice Bussidore, io lo riconosco. Questa qua è la zona di Cosa, del lungomare, guarda se la riconosci, capi? Sì, sì, sì, questa qua è la zona, questa sono le acque dolci. Figlia, infatti tu hai quella parte, un'amica mia che praticamente è a fianco a te, c'è tu e poi c'è lì, e praticamente un'amica mia di Porto Torres, capito? Pensavo che fossi tu, ma devo si capire andare, devo in altura oppure ultraleggeri, anche ci vede dall'alto. Deve essere così, quanto è il palazzo che c'è di fronte lì? Ma è già, è abbastanza in alto, è abbastanza in alto. È una bella visuale, là. Una bella foto. Ha caricato la gabbia, chi no che non è arrivato nulla? Sì, sta inviando. E deve avere pazienza perché qua che io ho la linea, l'ho collegata a una linea internet di casa ed è un po' lenta e quindi però sta caricando. Ah no, vabbè, non c'è problema, dopo lo guardo. Grazie a Vincenzo, poi lo voglio provare in macchina, voglio vedere se la capsula, ma penso che sia buona perché con l'altro apparato ci va un bel bene, è per quello che ho messo quella lì, capito? Oppure voglio provare, perché da casa non c'era nessuno, c'era gente, poi l'acceso non c'era più nessuno, cazzo, ho detto proprio adesso che voglio provare non c'è più nessuno. Magari non sentono nessuno e prendono e chiudono, oppure fanno altro. C'è entrato anche Franco adesso, Franco di Sorso, che stava provando un Sadelta, ma deve essere sta modificando, ma rientrerà, faccelo sentire. Adesso mi sto facendo questo mic del Superstar, che lo mettiamo in funzione. Che cosa ci sta mettendo? Che macchina c'è? Cos'è? Della Midland, mi ha detto, ma originale? Sì, è il mic del originale del 48, dell'Alan 48. Però gli avevo messo una capsula, l'avevo mai provato, mi segui? Sì, ho capito. Il 48 a me mi fa l'originale mi fa la voce nasina, non so a te perché ha un altro tipo di voce, ma a me la fa nasina, capito? Tutti mi dicono che è nasina, infatti io perché uso microfoni amplificati? Perché quelli normali mi fanno la voce nasina. E adesso lo vediamo com'è, perché non l'ho mai trovato con questa capsula, capito? In pratica è la capsula di un microfono piano, di un microfono che lavora appoggiato in piano, e aveva quasi le stesse dimensioni della capsula che c'era dentro del 48. E tanto una volta usando, era un microfono che non si usa più, e adesso glielo metto e vediamo un pochino come esce. Basta, vediamo un po'. Ma io ho aperto quella scatola che vedi dove stavo lavorando, quella scatola è tutta piena di microfoni, di cavi per microfono, di quelli morbidi, tutta piena di quella roba lì. E ho trovato diverse capsule, un sacco di pezzi, e ho trovato anche quella spugnetta che ti avevo detto che c'era tutta sporcata di umido. Ho trovato una spugnetta nuova e gliel'ho messa quella nuova, proprio originale, ci sta bene e bene. Sì, è bene, vanno bene quelle, vanno bene. Ti è arrivato il video? Cosa? Ti è arrivato il video. Ah, adesso vado a vedere. Già va bene, capito? Già va bene. Siamo tutti acuti. Però è molto limpida come modulazione, molto chiara. Se te lo sto dicendo che magari l'ho sentito al telefono, però qua dal vivo è bella la modulazione del Saturn Echo, molto molto molto bella. Io guarda, con la radio non l'avrei data mai. E ti posso dire una cosa, che se lo trovo uno faccio sacrificio e lo prendo, però deve essere originale, non deve essere toccato, scacciavitato, toccato lucettine, deve essere originale, perché quella radio se tu la abili a un Tanner più 3 normale è una bomba. Se cosa ti stavo dicendo, capi? Ce l'avevamo 280 euro, la cosa lo stavano dando con scatola, gli strutture, tutto quanto, un radioamatore che se ne stava sbarazzando perché doveva passare a apparecchi superiori. E c'è scritto che praticamente è come nuovo, che maniacalmente tenuto. Da continente? Cosa? Diciamo in continente già, ma non mi stai ascoltando bene. Perché ci sono gli uccelli che stanno, tu lo capisci, ci sono i pappagalli che ogni tanto gridano e mi fanno, mi tappano la modulazione, mi sovramodulano. No, ho capito, no, pensavo non ti stavo arrivando bene già. Sto usando l'Icomo io adesso, è quello che ho provato con l'MC 80. No, oh, sta arrivando benissimo, Gavi, non c'è problema. Super radio, va benissimo. Sì, sono in continente, sì, in continente, non è qua. Praticamente dava tutto, dava istruzioni, dava tutto quanto. Costava 180 euro, non è un prezzo molto alto, anzi è di quelli che ti attirano tipo specchio per le allodole. Non vorrei che magari avesse qualche problema, però c'è scritto che è come nuovo. Che quelle radio, vabbè, ci sono quelli esagerati, quelli che credono di avere oro in mano. È bello, tocco le due, però un Saturnetto sempre un baracchino e non puoi pagarlo, c'è gente che va bene 350 euro. Io avevo trovato a Cagliari, avevo trovato, lo voleva 330 euro, aveva il Saturnetto Turbo. Saturnetto Turbo aveva 330 euro, ero disinteressato, però poi avevo preso questo 450 e non avevo comprato. Ah, poi vabbè, il turbo esce con 100 watt, ma ti dirò che non è una cosa necessaria, anche perché se uno vuole uscire con 100 watt le attacca a 747 e fatto il gioco, lo puoi mettere anche all'interno perché c'è lo spazio. Claudio l'aveva messo all'interno, non so se te l'ha detto. No, non me l'ha mai detta questa cosa. Non me l'aveva mai detta, cercando caccio saldatore portatile scarico. Non me l'aveva mai detta e devo adesso, però un bel Saturnetto nella collezione mi piacerebbe, per fare collezione mi piacerebbe. E beh, sta bene anche stazione, devi avere il posto naturalmente, devi fare. Io mi sono fatto, non so se te l'ho mai fatto vedere intero, il mobile, c'è tutto quanto all'interno, poi chiudi gli sportelli, non si vede nulla, sembra un arredamento della camera da letto, capito? Ciao Franco, stai uscendo basso? Sì. Vieni a vedere adesso com'è? Una scheggia Franco, una scheggia. C'è anche Gianni. Te lo rilancio per i saluti. Sì, ci siamo già salutati, Gaffi, ma inventiandosi. No, non avevo sentito. Non avevo sentito, scusate. Cosa hai messo, Fra? Allora, quello lì è tutto aperto, c'erano dei fili staccati perché si è rotto dall'interno del voltometro, là si è rotto il pezzo, lo devo smontare e ripiazzare. Davvero? Ebbene, Lucrezia. Ciao Luca. Ciao Giovannandini. Attenzione, sono ascolti Sassari. No, chi è Sassari? Sassari, volte lo zello qua, Cappa. Cappa, che ti ascolto sempre bene. Dimmi, a questo gli ho fatto i punti. Ciao Gavino. Questo che cos'è? Mi più 5, Fra? No, il 4. Ah? No, va bene, va bene. Ma hai ancora i punti, Fra? Ho detto, ma questo qua, stamattina gli ho fatto i punti. Gliel'hai fatti stamattina? Eia. Positivo. No, va bene, Franco, va bene. Ma quanto ce l'hai l'amplificazione? Adesso ce l'ho a 10. Allora, è a 1, però dovrebbe essere fatto. 2, così è a 3, così a 4, 5, 7 8 9 9 così, gli altri 10 così. Io l'avevo lasciato a 4, io l'avevo lasciato a 4 perché almeno qua da me noi siamo vicini, noi siamo vicini, ti posso dare una questa comparazione qua, a 4 va benissimo, a 4 va benissimo, non so più in lontananza come, come diciamo cosa ti dicono. Saluto Luca Peter, buonasera. Avanti Gianni, dai una controllatina a Franco più o meno, come ti sta arrivando? Sì, a Fra. Metti un primo a 4 e un primo a 10, guardiamo un po' in lontananza come va. Chiaro, così è a 4 adesso. E così è a 10 direttamente. Vedi a vedere. A 4 è più chiara la modulazione, però anche a 10 non dispiace, a 10 è più combattivo. A 4 va bene, come ti ha detto Calvino, a 4 è chiara, non te la, non ti rovina la radio né niente, a 10 sta già cominciando un po' a sentirsi un po' la, non la compressione, ma che sta tirando. Cappa, così a 5 adesso, vedi già. Anche a 5 va bene. Ok, allora la lascio a 5. La lascio. O a 4 o a 5. Va bene così allora. Gabi, tutti e due li ho fatti. Ma tutti e due resistenti, o tu sia le MB più 4 o le MB più 5? No! Allora, qua gli ho fatto la modifica di 2 punti. Temporaneamente. Sì, infatti tutti e due bisogna farli. Oh Fra, ma ti voglio far provare una capsula io, ti voglio far provare una capsula. Se ti piace te la tieni, tanto non la uso. Se vuoi io sono a casa, passa che te la prendi e te la provi. Perché tu adesso stai usando l'originale così. No, qua c'ho la capsula del telefono, di quelli della SIP. Positivo, se vuoi venire, se ti vuoi fare un giretto, tanto sei vicino, vieni, ti do una capsula, intanto li colleghi solo i fili da dentro, ti do una capsula di un microfono, diciamo un microfono da studio, tanto io ne ho tante, vieni e te la provi. Non adesso, perché sto aspettando una persona, magari un altro giorno, dai, facciamo, capito? Come vuoi, non è un problema, ce l'ho qua a casa e te la faccio provare. Ne do una a te, perché ne ho tante, una a te, una a Gianni, così la provate e vedete un po' se vi fa la voce un pochino più grossa. Cappa, dai, quando capita, cioè per stasera niente, non posso uscire. No, vabbè, non è che, quando vuoi, mi fa, quando vuoi, non c'è problema. Avanti già, riprendi. Non c'è problema, Calvino. Comunque sta uscendo bene Franco, mi sembra che migliore della mia la modulazione. Non la sento con più tuni, invece la mia rimane più acuta. Sbaglio Franco, mi senti con modulazione senza medio alti eccetera. Guarda, io ti ascolto, guarda, la tua modulazione è bella, non è brutta, è bellissima, è bella chiara, è come parlare in verticale. Luca, tu che mi conosci bene, com'è la modulazione questa? Tu, Luca, nel mondo delle nuvole sarà certezza. Aspetta, c'avevo il Nicky Gay della radio a 5, avevo. Vedi a vedere così com'è adesso, che ha aumentato il Nicky Gay del Galax. Anche troppo forte. In pratica, dovrei abbassare, se abbasso qua, vedi? Allora abbasso a 3 il microfono, com'è? Allora lo regoli dal macchinino, lo regoli dal microfono, due sono rigosi. Ti conviene dal microfono perché poi se attacchi qualche altro apparecchio, altro microfono ce l'hai già al massimo. Poco dal microfono abbassare e alzare. Cappa, guarda, adesso ce l'ho a 3, ce l'ho. E così è a 4, vedi a vedere com'è, così è troppo, così è. Cazzo, è forte, bella, chiara, forte, sei chiaro. Cappa, e tu capi? Ah, io qua ti sento, è bella, è una telefonata, è bella, bella, bella, è forte, forte, forte, non ci sono problemi, fra, è comprensibilissima, chiara, però ha una radio molto forte, la radio del se anche se mi metti il microfono originale esce forte il radio. No, no, stavo usando quell'altro, stavo usando. Quasi quasi è meglio questo con la modifica che lo Shure. A voglia, sì, quello è vero, questo qua è molto meglio. Gianni, tu hai la capsule, hai solo la modifica, ma non c'è la, ma hai la capsule originale sempre, mi segui? Sì, Gavi, la capsule originale. E allora vedrai, da, guarda, te la do io questa, te la do una capsula di quelle che ti che, di queste qua, e poi vedrai come esci di modulazione. Ma come sono piccole, Gavi, o grandi? No, hai visto la diciamo il bocchettone dove parli del microfono del MP4. È preso, lo vedi com'è? Sì, la grandezza del bocchettone. Bravissimo. E dico la grandezza stesso delle Turner, dai. Della capsula del Turner. Sì, sono capsule di microfoni dinamici, però hanno. Sono belle. E vabbè, io non l'ho toccata la capsula perché l'ho voluto provare prima, così mi hanno detto che usciva bene, quindi non l'ho voluta toccare per quello, se no l'avrei cambiata. C'ho anche quella del Tunnel più 3. E prova a mettergliela, no? Capisco. C'ho la punta del saldatore, ha scaldato troppo, vuole cambiata. Adesso bisogna se la trovo, perché a vedere i saldatori tutti sono buoni, però avere le punte originali o... Prendi un pezzo di tan, prendi un pezzo di rame, il rame pieno, glielo fai piano piano, glielo fate così. Quelle dei saldatori ve le ho cambiate così, a chi tutti va, è vero, tutti hanno i saldatori, ma nessuno ha le punte. E allora dopo ho trovato il rame da lì, come l'ho preso e gliel'ho fatto così. E gli sarà più gusto il rame, e come loro lo paga? E cosa costa? Un metro di rame, un metro di rame lo paghi 6 euro, ma ti dura 10 anni. Ah, quello sì, quello già è vero. Avanti Luca, ci sei? Va bene, riprendi tu, fra. Ma perché non ti prendi un saldatore tipo quelli che ho io e le punte le compri da internet lo stesso e non le paghi tanto? E come ce l'hai tu? Io c'ho un saldatore che quando salda è bellissimo, fa certe saldature, però sicuramente l'altro giorno stavo facendo un lavoro, mi sono prolungato, era sempre attaccato e mi si è bruciata la punta, non salda più bene. No, io c'ho la stazione saldante, ne ho due, ce n'è una che c'è anche l'aria calda e l'altro che c'è solo saldatore e basta, e arriva sino a 450. Ma io non è che lo uso più di tanto, faccio qualche saldatura così, ma non necessita, basta che sia buono il saldatore, anche se non è la stazione saldante, già va bene lo stesso. Anche io l'ho avuta la stazione saldante, mi è partita poco tempo. Ma io ce l'ho parecchi anni, ce li ho tutti e due, e ti dico una cosa, che quando compravo quei saldatori anche da Bri come cose così normali per attaccare la corrente, quelli mi si bruciavano subito. Alla fine ho detto, ma che me lo fa fare? Faccio la spesa una volta e non la faccio più. Quello sì, no, ma io ne avevo preso uno dei cinesi, mai prendere saldature dei cinesi, come ha attaccato la spina ha scoppiato, ha fatto boom, cazzo, mi sono combinato un ratto. Lascia presa quella roba lì, se ne prendi, vai da Bricome, riprendi da Bricome, sono migliori. No, questo qui l'avevo preso da Fusano, l'avevo preso, questo che c'ho, c'è anche il pulsantino per aumentare la temperatura. E lui le punte non ce li ha, Fusano? Non lo so, non ho voluto dire una fesseria, però l'altra volta era andata e non ne aveva. Adesso non so se ne siano arrivate. Devi controllare a vedere, perché se ce li ha Fusano, c'ha le punte sue. Avanti, capito? Lidl, stazione saldante della Lidl e va alla grande. Io ho una stazione buona, ho stesso l'aria calda, però ce l'ho in garage per farmi i cavi dell'impianto. Ma quella della Lidl, guarda, va benissimo. Ma ci deve essere l'offerta quando la prendi, perché se no non c'è. Già, lo sai quanto l'ho pagata? 29 euro. Lo so, perché ho preso avvitatore, ho preso un sacco di roba, sono tutte cose buone, perché vanno bene, capito? Sono tutte cose buone, le roba tedesca. Infatti, ma è una stazione saldante buona, cioè è buona. su altre cose, ma per un mitticato lo Istituto Generale si è dato in mano. E quello infatti, a me basta anche un saldatore, io ce l'avevo anche a pistola i saldatori, ce l'avevo a pistola e anche normale, anzi ce l'ho tuttora a pistola, ce l'ho anche a pistola, però quella pistola mi va bene per fare PL, capito? Sì, se è vero ce l'ho anch'io con la pistola, cioè, se allora io ho tanta regola di quella roba, me ne dovevo anche trovare. Allora, massa, audio, un attimino che saldo questi piedi, questo coso. Fai, capito? Cosa le stai facendo? L'attacco per la parte? Sì, per il supercar. Dai, vai avanti, Franco. Ehi, capo. Mi dava da poco, a me mi si è bruciato la penna del saldatore, si è bruciata la scheda, perché come la penna che ho io c'ha una scheda dentro, cioè, e si è bruciata quella, e meno male che io me ne compro sempre una di riserva, e adesso ce l'ho messa nuova. Essere previdenti non è mai troppo. Io quando ho comprato il saldatore, l'altro che ci avevo comprato anche 4-5 punte di quel saldatore, non ce n'era una che andava bene, mi ha detto punte che non scaldavano. Ma il rame dovrebbe scaldare, se tu becchi un tondino del rame piccolino che entri lì dentro, entri bene, dovrebbe scaldare, perché il rame scalda, lui ce la fa. Da quanto ce l'hai? Da 100, da 80 o da 70? Non me lo ricordo, Fra, devo guardare, non me lo ricordo. Comunque, stava facendo saldature strane, capito? Non attaccavano. L'ho pulito, l'ho fatto, adesso lo pulirò un po' con la carta vetrata, vediamo un po', l'ho pulito con la spugnetta sua, perché c'ho la cosa, mi è rimasta la base della stazione saldante dove tu appoggi, dove appoggiavo la penna del saldatore, là. E c'è anche la spugnetta che la bagni e pulisci con quella, però ecco così. Capa, la pasta la usi, il maratonino della pasta. Sì, la pasta salda, sì che la uso. Tu quando è un po' sporca la punta, non la devi fregare niente, mettila nella pasta che te la fa lucida. La pasta salda? Io solitamente metto la bacchetta del coso dello stagno, la pasta salda e poi fate un fiago, ma lo danno assaggio. Capo, prova a mettere il saldatore quando è caldo, dentro la pasta saldata. Vedrai come te lo fa lucido. Io la bagno sempre, ogni tanto la bagno. No, questo non lo sapevo, provo sì, certo che ci provo, ne ho due di vaschette di pasta saldata. Di quelle vaschette che ti danno insieme a cosa, allo stagno, quelle cose lì? A quelle rotonde, quelle rosse. Ho capito, no, io ho quella, il barattolo proprio da quanto è, 75 grammi. È migliore quello, come pasta. Dentro di quanto lo bagno, ogni tanto ci sono tutti i cosi dello stagno dentro, all'interno. Io lo stesso lo uso il saldatore, perché lo uso quando mi serve, lo uso, mi fa piacere che funzioni. Quello all'inizio faceva certe saldature belle lucide, belle perfette, che vedi questi PL, cavolo, con la saldatura lucida. Sì, infatti io lì poco fa stavo saldando, infatti l'ho messo da parte adesso col microfono, me lo faccio con calma, me lo faccio, perché devo smontarlo tutto adesso e rifarlo, perché avevo capito perché fischiava. Avevo capito, infatti gli ho fatto le saldature, gli ho tolto quelle saldature con il superstagno, gli ho tolto lo stagno e gli ho fatto le saldature nuove, tutte separate, perché toccavano insieme quelle due saldature, capito, due fili, ed era per quello che mi fischiava. Quindi erano fatte tu quelle saldature? No, quelle no, non le avevo fatte io. Non me ne ero neanche accorto, non sono accorto adesso, perché alla fine per che fischiava, ho detto, ma c'è deve essere qualcosa. Infatti Gavino mi ha detto, dice, guarda qualche condensatore che non sia, invece i condensatori sono tutti buoni. E mi sono accorto di questo, di questa saldatura. E adesso gliel'ho separata, infatti non fischia. È solo che deve essere, si è rotto quel pezzo di coso della, del voltometro, che quando parli si muove, no? Del solito? Via. Io forse ne ho uno. Ehi, cappa, poi adesso mi metto a posto quello, dato già ho visto dove si è rotto, lo scavo appena appena e glielo risalto. Via. Io forse ne ho uno del ricambio, non me lo ricordo però se l'ho conservato. Capo, e quelli sono tutti da conservare perché non si sa mai. Quando ce l'hai, io, infatti io ho anche un voltometro e amperometro di un come si chiama? Di un alimentatore, esempio alimentatore, e noi li ho buttati quelli lì, ce li ho tenuti, per il sicuro. Ma poi quando li piazzi vogliono tarati, non è che li piazzi così, no? Lo so che non li piazzi così, certo non li faccio io. Cappa, cappa, vabbè. No, già servono sempre, certo, Gavino, ma inizio, finito, Beh già, finito, sto funzionando queste connessioni, un attimino, volteste. Ah? Grava, grava, fai, tranquillo. Niente, adesso l'ho messo da parte col microfono, faccio se poi il giorno che salvo a portarci il gala, magari mi tocca presso anche a lui, me lo faccio tutto divisionare quello c'è delta. Sì, mi pare che è andato coso, come si chiama? Carlo è andato a portargli l'apparecchio che stava modulando e di colpo gli si è bloccato, non accendeva più, poi accendeva e non accendeva, solo spegnevi, lo riaccendevi, accendeva e poi si spegneva. E allora gliel'ha portato nuovo con l'apparecchio, un peccato. E non era in garanzia? Sì, mi sa che dissi che era in garanzia, ma non l'ha voluto spedire, l'ha voluto portare direttamente là, dai. Lo porta direttamente a coso. Almino, se almeno vede e provvede. Capo, no, io non lo conosco, però ho sentito molta gente che ne parla bene. Sì, quello lì preparava anche gli apparati per i camionisti, quelli tutti modificati, è bravo. Come stavo dicendo, se vuoi il numero, ce l'ha Carlo, ce l'ha Bulldozer, il numero di Almino. Sì, lo so, quando è al collo mi serve, quando capita che mi serve, chiamo a coso, a Massimiliano. Oppure ce l'ha anche coso, ce l'ha, come si chiama, adesso non mi viene, mi è scappato il nome, quando non li sentite frequenti. Carlo ce l'ha. Sì, a parte Carlo, ma ce l'hanno anche altra gente. Vabbè, uno all'altro, quando tu devi andare, lo chiami prima e dici a me, guarda che devo portare un Saturn Eco a controllare lo smitter. Faccio controllare lo smitter, mi faccio regolare la potenza, mi faccio fare un po' di tutto. E quasi quasi li porto in linea retto e ce lo faccio installare dentro. Il 747 ci sta di sicuro. Sì, il 747. E intanto va senza la carrozzeria. Già lo so, va aperto, beh. Se lo scalda. E infatti. No, quasi quasi gli faccio fare anche quello, gli faccio fare. Ma lo puoi mettere esternamente, che di nafutti, lo metti esternamente la stessa cosa. Io so che lo puoi mettere anche esternamente, per non stare lì con cavi e cavetti. Vabbè, è un'altra scelta, dai. E vabbè, comunque, quello dello smitter già te lo regola tranquillamente, dai. È una fesseria, mi sa che c'è una resistenza che parte, capito, vuole cambiare. Capo, vabbè, vediamo un po', vediamo. Che come radio è buona, non ho problemi. No, assolutamente no. Aspetta, bel regalino. Qui buono di così. Non sono quella, insieme mi adatto, Bisù 131, ed è nuovo, nuovo, nuovo, e più c'è Delta, sbaglio, c'è Delta, il coso, l'usciure. E Bisù 131 non l'ho. Ce l'ho qua, ce l'ho, non lo sto usando, ne ho due di Bisù 131 adesso, uno ce l'avevo io, buono lo stesso. Poi quando mi ha portato questo, mi ha portato Galax, BV 131 e usciure. E lui non modula più. Cosa? Lui non modula più. No, non modula più. È tanti anni che non modula. Sai che da primi del 2000 che non modula più. Vabbè, comunque ti ha fatto un bel regalo, dai. Nuovo è come a Parigi. Sì, qualche graffiettino, sì. Da una parte, diciamo, dove c'è lo slider dove regoli le bande laterali, tutto, qualche numero manca lì, capito? Ma una fesseria. Infatti mi ha detto, dice, no, come lo stavo pulendo, quello non se n'è andato. Quei numeri se ne sono andati, però dice, vedete che ho usato qualcosa che non dovevo usare, a pulirlo e via. Però, perché era sempre dentro uno scatolone, dice, dentro in garage, così buttato, così per terra, no? Era. Infatti ho detto, io allora non mi funziona nemmeno. Infatti stavamo parlando qua fuori, che lui lavorava contro il comune, e mi fa, dice, ha alzato la testa, ha visto le mie antenne, no? E mi ha detto, dice, ancora non usi.